GR Europa. E buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. Un'agricoltura europea aperta ai giovani, più equa, più verde. Questo è il profilo della nuova PAC, la politica agricola comune, che dovrebbe emergere dal vertice a Lussemburgo per il round finale delle trattative sulla riforma. Una trattativa a tre con Commissione e Parlamento europeo. In gioco ci sono risorse importanti per i quasi 30 milioni di lavoratori agricoli europei. A guidare i negoziatori per l'Europarlamento il presidente della Commissione Agricoltura, l'italiano Paolo De Castro. Così al microfono di Anna Marino. Noi stiamo andando avanti a negoziare, abbiamo fatto passi avanti la scorsa settimana a Bruxelles, continuiamo a negoziare a Lussemburgo per cogliere la disponibilità della Presidenza e della Commissione, ma dobbiamo ricordare che nulla è deciso finché non ci sarà la Commissione Agricoltura il 26, mercoledì prossimo, dove si valuterà il sostegno politico di tutti i gruppi all'eventuale accordo, se ci sarà. In dettaglio l'ammontare dei fondi per l'Italia? Stiamo parlando di circa 6 miliardi di euro all'anno, per cui nei 7 anni di programmazione sono circa 41-42 miliardi di euro. Risorse importanti sia nei confronti degli aiuti diretti degli agricoltori, ma anche per il sostegno ai piani di sviluppo rurale per le regioni italiane. Quindi parliamo della più importante politica dell'Unione. Sono il 40% dell'intero bilancio dell'Unione Europea, per cui ci auguriamo non solo di difendere le risorse, ma soprattutto di avere regole meno burocratiche, più flessibili, che aiutino le imprese. Una PAC più verde, ma anche più equa, più semplice da applicare. Per l'Italia, che vede in gioco, come sentivamo, risorse importanti, le richieste sono arrivate dal ministro dell'Agricoltura, Annunzia De Girolamo. Alcune volte è necessario, credo, quando si va in Europa, evitare di svilire l'Italia e soprattutto l'agricoltura e il lavoro degli agricoltori italiani. Quindi siamo stati molto chiari ed è stata apprezzata la chiarezza di questo negoziato. Abbiamo sicuramente portato a casa molti risultati. Tutto è migliorabile, pertanto questi due giorni saranno intensi. Trattative in salita per la Turchia invece dopo le prese di posizione antieuropee. Il premier turco Erdogan ha di nuovo reso omaggio oggi all'operato della polizia in un discorso pronunciato alla scuola di polizia di Ankara e ha di nuovo criticato l'Europarlamento. Parole che arrivano mentre sempre a Lussemburgo sono riuniti anche i ministri degli esteri per decidere se rilanciare o chiudere la trattativa per l'ingresso in Europa. I 27 sono spaccati nonostante la Germania abbia a sorpresa riaperto uno spiraglio, come chiedono Italia e Belgio. Non si può ignorare cosa è successo nelle ultime settimane in Turchia, ha detto il ministro degli esteri tedesco Westerwelle. Questa escalation non è buona, ma d'altra parte abbiamo interessi di lungo termine nel rapporto con Ankara. Trattative destinate a durare per tutta la giornata, ci torneremo naturalmente. Intanto l'Europa vi aspetta domani, come sempre, alle 13.15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.